D. Ascolta il dialogo. Ciao. Ciao. Che voce! Non ti sei riposata molto questa notte. Insomma. Facciamo colazione? Ci prendiamo un caffè insieme? Sì, volentieri. Così mi sveglio. Ieri ho parlato con Giuseppe e Marion. Chiedono sempre di voi e vi salutano. Grazie. Non vedo l'ora di passare un po' di tempo con loro. Tengo io, Emma. Grazie, papà. Ecco, buongiorno, bellissima, buongiorno. Ma che fa? Si addormenta adesso? Penso di sì. Quando la tieni tu e si appoggia così sulla tua spalla, vuol dire che sta per addormentarsi. Ma con tutto questo rumore, no! Adesso no! Tu devi dormire un pochino di più la notte. Così anche la mamma deve dormire un pochino di più la notte. Così tutte...